Ad alta voce. Le metamorfosi di Ovidio, tradotte e lette da Vittorio Sermonti. Libro tredicesimo, versi 123-381. Morto il grande Achille, Aiace, Telamonio ed Ulisse si contendono davanti a una platea di generali e soldati l'onore di ereditarne le armi. Con rude eloquenza Aiace ha enunciato le proprie ragioni. Il figlio di Telamone ha concluso e il mormorio della truppa fa eco alle sue conclusioni. Allora il Laerziade si alza, si attarda fissando un poco per terra, poi pianta gli occhi negli occhi dei generali e li gratifica del suo dire, tutt'altro che privo di eloquenza e di fascino. «Se i miei auspici o pelasgi ed i vostri avverati si fossero, fuori discussione sarebbe a chi spetti questa sontuosa armatura. Tu l'avresti ancora, noi Achille avremmo ancora te. Ma dato che l'iniquità del destino me lo ha negato, ve lo ha negato, e si passa una mano sugli occhi come piangesse, chi può subentrare meglio al grandissimo Achille di chi ha convinto il grandissimo Achille a seguirvi, o Pelasgi? Non vorrei solo che l'aria da scemo di quello scemo lo avvantaggiasse troppo e per contro il mio ingegno prezioso Achei io dovessi espiarlo. La presunta eloquenza che adesso sto usando per me, ma ho sempre usato per voi, non vorrei mi attirasse un eccesso di invidia. Chi non sfrutta il proprio talento? Infatti io non penso uno debba fregiarsi di quanto non sia opera sua, come stirpe e antenati. Ma visto che Aiace si vanta della covata di Giove, beh, anch'io per gli rami discendo da Giove, scalando altrettanti gradi di parentela. Tant'è, mio padre è Laerte, Arcesio era il suo, ed il padre di Arcesio è Giove, e nessuno dei miei l'han mandato in esilio. Di più, Mercurio Cillenio raddoppia per linea materna i miei titoli. Un dio mi è toccato per ciascuno dei due genitori, ma non perché io sia più nobile per parte di madre, e non perché mio padre abbia omesso di assassinare un fratello. Reclamo le armi in palio, giudicate solo nel merito, purché non si ascriva a merito di Aiace che il buon Telamone fosse fratello di Peleo, né si valuti in base ai carati del sangue e le spoglie si assegnino solo in ordine alla virtù. Se invece cerchiamo l'erede in ragione del vincolo, più o meno stretto, c'è Peleo che è il padre, c'è Pirro che è il figlio. Aiace che c'entra? Le armi spediamole a Sciro, spediamole a Ftia, e Teucro non è cugino di Achille anche lui e pretende le armi e nel caso pretendesse otterrebbe qualcosa? Ma se verterà il contenzioso sui nostri meriti e basta, bene. Io ne ho tali e tanti che in un discorsetto all'impronta non mi ci stanno. Vuol dire che procederemo per ordine. La Nereide sua madre, sapendolo destinato alla morte, che fa? Lo traveste e tutti, gabbati dai vestitini di Achille, ci cascano. Tutti ivi incluso il qui presente Aiace. Fra gli articoli per signora, io che faccio per ridestargli gli istinti del maschio? Ci infilo le armi, e quello fa tanto di strapparsi il vestito di dosso e brandire asta e spada che io gli strillo: figlio di Dea, per cadere Pergamo non aspetta che te, tu che aspetti a radere Pergamo al suolo. Così prelevo quel prode destinandolo a immani prudezze. Le sue gesta, insomma, sono opera mia. Io Telefo ho vinto in combattimento e lui che piangeva io l'ho guarito. Se Tebe è caduta è merito mio, date retta, Lesbo e Tenedo e Crise e Cilla, città di Apollo e Sciro, le ho prese io, si può dire. Sono crollate le mura di Lirnesso, mettetelo pure sul conto della mia spada. E ad indicarvi uno in grado di abbattere l'inclito Ettore per tacere degli altri, chi è stato? Chi l'ha fatto morire? Io. In cambio di quelle con cui lo ho scovato, reclamo le armi di Achille. Gliele ho consegnate da vivo, lui me le deve da morto. Quando l'offesa patita da uno finì per offendere tutti i greci e mille vascelli si stipavano in Aulide e i venti però si ostinavano a non alzarsi o si alzavano in senso contrario, un oracolo atroce ad Agamennone ingiunse di sacrificare la figlia innocente a Diana spietata. Lui si rifiuta, furioso con tutti gli dèi, re che sia, è un padre pur sempre. Con l'arte della parola io lo induco, la tenerezza paterna, a immolarla al pubblico bene. Oggi sì, lo confesso, e l'Atride non me ne voglia. Davanti a un giudice prevenuto ho vinto una causa impossibile. Ma nell'interesse del popolo, per l'onor d'un fratello, per gli obblighi dello scettro, l'ho indotto a pagarsi la gloria col sangue suo proprio. Pure da sua madre mi mandano. Che fai? La convinci? Impossibile, non c'è che ingannarla. Affidassimo la missione ad Aiace, le vele starebbero lì ad aspettare ancora una bava di vento. In missione spericolata mi spediscono pure alla rocca di Troia e lì accedo all'inclita curia, a quel tempo affollata di insigni guerrieri. Imperterrito, espleto il mandato affidatomi dalla coalizione di tutti i greci. Paride accuso, pretendo la restituzione e del tesoro e di Elena, e vedo turbati Priamo e Antenore, suo braccio destro. Ma Paride, i suoi fratelli, i suoi complici, poco ci manca mi mettan le mani addosso. Menelao, lo sai bene che c'eri. Quel giorno fu il primo in cui abbiamo noi due condiviso un pericolo. Non abbiamo tempo però per conteggiar tutto quanto ho fatto di buono col braccio e la mente in tempo di guerra. Dopo i primi scontri, il nemico si barrica dentro le mura e non c'è più verso di farlo uscire a battersi in campo aperto. Ah sì, per combattere 10 anni abbiamo aspettato. E tu nel frattempo che hai fatto, che non sai far altro che quello, servivi a che? Se ti interessa sapere che cosa facevo io, beh, tendevo imboscate, fortezzavo trincee, suggerivo ai nostri i sistemi per sopportare sereni la noia d'una guerra infinita, spiegavo come ci si procurano vitto e armi, volavo in missione dovunque serviva io volassi. Ed ecco che, frastornato da un sogno imputabile a Giove, il nostro sovrano dispone che noi rinunciamo alla guerra e giustifica l'ordine in forza del dettato divino. Aiace che fa? Si oppone? Perora la fine di Troia? Non sa fare altro? Si batta. Perché non argina il fuggi-fuggi? Perché non prende le armi? Non dà l'esempio alla truppa? Da uno che blatera tanto non era troppo pretendere. Invece scappa anche lui. A vederti mi vergognavo che davi la schiena, prontissimo a spiegare le vele dei vili. Io subito, ma che fate, grido, siete impazziti, camerati, a mollare Troia praticamente già presa. Dopo 9 anni vi attrae tornarvene a casa scornati. Con questi argomenti ed analoghi, fatto più eloquente del solito dall'angoscia, riporto indietro dalle navi alla fonda i fuggiaschi, L'Atride convoca i nostri camerati atterriti e tu credi che almeno a quel punto il figlio di Telamone spiccichi parola? Eppure Tersite insolentiva i sovrani con una protervia che io gli ho fatto pagare. Io mi adergo. Contro il nemico ricarico i miei titubanti compatrioti e a gran voce rinfocolo in loro il coraggio svanito. Da quel momento ogni gesto si accrediti al mio rivale è merito mio, che nel fatto l'ho dissuaso dal darsela a gambe. Ma poi, fra i Danai, vuoi dirmi chi ti apprezza, chi viene a cercarti? Invece il grande Tidide a me li confida i suoi piani. Conta su me, non c'è impresa in cui non coinvolga il suo Ulisse. Vorrà pur dire qualcosa se fra migliaia di greci Diomede ha scelto me, che estratto a sorte non ero. Ma io lo stesso, sprezzante del nemico nonché della notte, uccido Dolone, un teucro che stava tentando un'analoga sortita, avendolo prima però costretto a svelarmi per filo e per segno le perfide macchinazioni di Troia. Ormai sapevo tutto e a ricognizione compiuta potevo rientrare a godermi i meritatissimi encomi. Invece no, punto le tende di Reso e lo ammazzo, lui con diversi commilitoni nel cuore del campo nemico. Solo allora, felice e contento, rientro sul carro sottratto al nemico, quasi che fosse il carro del trionfatore. Se mi negate le armi, Dolone voleva i cavalli di Achille in premio della sua sortita. Siete più gritti di Aiace. E dovrei ricordarvi i reparti del licio Sarpedone fatti a pezzi con le mie mani? In un lago di sangue ho affogato Cerano, figlio di Ifito, o no? Alastore e Cromio e Alcandro e Alio e Noemone e Pritani. Ho fatto fuori Chersidamante e Toone e Carope ed Ennomo, povero Ennomo, che per un dispetto del fato mi trovo fra i piedi. E quanti altri un po' meno famosi non ho ucciso sotto le mura della città? Le ferite che come decorazioni mi storiano il petto non sono chiacchiere. Datemi retta, signori. Guardate un po' qui. Con la mano si scosta la veste. Ecco chi si è sempre battuto per la vostra causa, signori. Laddove in tanti anni il nostro Telamonio non ha versato una goccia di sangue, non si è sciupato con una ferita. Ma questo che importa se, come sostiene, ha difeso in armi la flotta dei greci contro i troiani istigati da Giove? La difesa, d'accordo, io non sono di quelli che minimizzano i meriti altrui, ma non vedo perché voglia prendersi lui tutta la gloria di tutti, senza lasciarvene un'ombra. Non fu Patroclo che, travestito da Achille, respinse i troiani sul punto di dare alle fiamme la flotta e il suo difensore? Ma lui pensa d'esser lui solo in grado di misurarsi con Ettore in campo e dimentica i re, i generali, me stesso, lui che, se fra nove fu scelto, può ringraziare il sorteggio. Che poi, mio fortissimo, l'esito del duello ce lo racconti? Non se l'è cavata Ettore senza una scalfittura? Povero me, con che strazio mi vedo costretto a riandare il giorno che vidi soccombere il bastione dell'Ellade, Achille. Né le lacrime, né lo sgomento mi impedirono, né la paura di sollevarlo da terra e riportarvelo. Sì, queste spalle si son caricato il corpo di Achille con tutte le armi che tanto amerei di portarmele addosso, ma tanto. Per sostenerne il peso le forze ce le ho, quantomeno saprei ben rendermi conto dell'onore che voi mi fareste. Ma certo, Ecco cosa sognava per suo figlio la madre azzurrina, che questa armatura, quest'opera d'arte suprema, finisse sulle spalle d'un tanghero senza cultura, senza finezza, incapace, ci posso scommettere, di decifrare i rilievi dello scudo, l'oceano, la terra, il cielo con tanto di stelle, le Iadi, le Pleiadi e l'ursa che non si tuffa nel mare, le città contrapposte, la spada scintillante di Orione, e pretende questo qui, gli si assegnino armi che non capisce nemmeno. Lui mi accusa perché mi sarei associato tardi all'impresa in corso, tentando sottrarmi alle dure corvée della guerra, senza accorgersi che così sta sparlando di Achille il magnanimo. Se simulare lo chiami delitto, abbiamo simulato tutti e due. Se è una colpa il ritardo, ho tardato meno di lui. Me mi frenava l'amore per mia moglie, lui per sua madre. A loro abbiamo dedicato quegli attimi, a voi tutto il resto. E chissà se vorrei contestarla, un'accusa che condivido con tanto eroe. In ogni caso è stato l'acume di Ulisse a smascherare Achille, non quello di Aiace, me. Del resto, perché stupirci se questo bestione mi copre di improperi? Rinfaccia bassezze anche a voi, se io avessi commesso un'infamia inventando l'accusa a carico di Palamede, voi altri nel condannarlo non sareste stati granché. Di fatto, il figlio di Naupio non seppe scolparsi, talmente lampante era il crimine, e voi non siete stati al sentito dire, ne avete verificato la prova contabile. Quanto al fatto che Filottete si trovi al momento nell'isola di Lemno, io che c'entro? Semmai la colpa è di tutti, eravamo tutti d'accordo. D'accordo a convincerlo di risparmiarsi il viaggio e la guerra, fatiche eccessive, e tentar di sedare col riposo gli atroci dolori, sono stato io. Lui mi ha dato retta ed è ancora vivo. Consiglio il mio non soltanto leale, ma anche felice, benché la lealtà basterebbe. Gli indovini ora chiedono che torni lui per abbattere Pergamo. Non mandate me. Molto meglio vada Aiace, la sua facondia blandirà quell'uomo pazzo di rabbia e di malanni. Oh, furbo com'è, voi non trovi un trucco per riportarcelo? Torneranno i fiumi all'indietro, resteranno senza una foglia i monti, la Caia verrà in aiuto di Pergamo, prima che dovesse mancarvi il supporto del mio ingegno. La zucca di questo cretino di Aiace vi torni d'una qualche utilità. Detestaci pure noi altri alleati, noi re, noi me stesso, Filottete spietato. Ma certo, maledicimi quanto ti pare, impreca sulla mia testa, ingannando i tormenti, all'idea ch'io ti sia consegnato, che tu ti abbeveri del mio sangue, al sogno di avermi in balia come io ti ho avuto in balia. Ma vedrai, ti ritrovo, vedrai, ti riporto indietro con me, e se la fortuna mi aiuta ti sequestro le frecce, vedrai come ho sequestrato a suo tempo l'indovino dei Dardani, come mi son fatto svelare da lui il destino di Troia e gli oracoli degli dei, e ho rubato la statua di Minerva dal suo santuario in mezzo ai nemici. Vedrai. E Aiace pensa di battermi. Senza quella statua era scritto che nessuno potesse prendere Troia. E Aiace che fa? Che fine hanno fatto i suoi truci paroloni? Ha paura? Com'è che Ulisse invece ha il coraggio di sorprendere il corpo di guardia e, contando sul buio di notte, imbucarsi tra spade feroci, non solo dentro le mura di Troia, ma fino alla cima della rocca, a rapire la dea dal tempio e, rapita, portarvela indietro attraverso il nemico? Non lo avessi fatto, il rampollo di Telamone, il suo scudo settemplice, dimmi, lo avrebbe brandito per farci cosa? Quella notte vi ho procurato la sconfitta di Troia io, espugnando Troia nell'atto di rendere Troia espugnabile. E smettila di parlottare, indicando a tutti col capo il mio amico Diomede. Ha fatto anche lui la sua parte, sicuro. Anche tu, quando dietro il tuo scudo proteggevi la flotta, non eri solo. Tu avevi migliaia di colleghi, io uno ne avevo, il quale non fosse convinto che il braccio non valga la mente e che chi non sa che menare fendenti non meriti il premio, lo reclamerebbe per sé lui come il più ragionevole degli Aiaci, come il terribile Euripilo, come il famoso Toante e a maggior ragione Merione ed Idomeneo compatrioti lo reclamerebbero e il più giovane degli Atridi, che non ci sono secondi in campo, ma al mio raziocinio si sono arresi. Il tuo braccio in guerra ti torna prezioso, ma il tuo cervello ha bisogno di qualcuno che lo indirizzi. Tu detieni la forza bruta, io penso alle prospettive. Tu combatti, d'accordo, ma è il tempo di combattere. Atride, con chi lo decide? Siamo tu ed io utilissimi. Tu con il solo corpaccio, io con la testa. Di quanto il nostromo primeggia sulla ciurma, il generale sul fantaccino, di tanto io ti surclasso. Nella persona umana il pensiero prevale sul corpo. La vera forza sta nel pensiero. Dunque voi, signori, premiate chi vi protegge e per quanto d'ansia e di zelo ho profuso nel corso degli anni per voi, assegnatemi questo onore in segno di gratitudine. Siamo in chiusura. Ho rimosso gli inceppi del fato e rendendola espugnabile, praticamente vi ho espugnato la rocca di Pergamo. Per la comune speranza, per le mura che stanno crollando, per il nome che ho appena sottratto al nemico, perché tutto quanto rimane da fare sia fatto con prudenza e per quanto ancora possa occorrere di temerario e tempestivo avanzasse a Troia un residuo di vita, non vi scordate di me, ve ne supplico. Ma se vi ostinate a negarmi le armi, signori, datele a lei. Dice e addita la statua fatale di Atena.